È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e bentornate alla nostra 240esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa, nell'ambito sempre e comunque del martedì femminista e lesbico autogestito. Allora, innanzitutto vi ricordiamo che questa radio non trasmette pubblicità e vive grazie ai contributi volontari delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Perciò fate come noi, aderite alla campagna di sottoscrizione straordinaria per Radio Onda Rossa. Sottoscrivi, venendo negli studi in via De Volsci 56 a Roma, tutti i giorni dalle 8 alle 21, oppure compilando un bollettino di conto corrente postale numero 61804001, intestato a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00 185 Roma, e sulla causale sottoscrizione. Oppure sul sito www.ondarossa.info cliccando l'icona Sostieni. Bene, oggi in radio siamo Lucilla, che sono io, Manuela, che è alla console, e Rosina, che è The Voice. E stasera vi parleremo di un'antropologa, Margaret Mead. Ma prima, come di consueto, vi faremo ascoltare un bel brano musicale che adesso Manuela manderà, come sempre interpretato da una voce femminile, il cui titolo, mi dispiace, ve lo dirà Rosina. Il titolo è Da quell'altra parte. Ci passi il foglio, così diciamo il titolo a queste giovani pischelle? Allora, il titolo è Black Velvet e la voce della donna è Alana Miles. Perfetto, buon ascolto. Dry spell, Jimmy Rogers on the Allora, eccoci, eccoci qui. Si sente tutta la mia voce? Si sente benissimo. Dunque, quindi, come vi ha preannunciato Lucilla, questa sera vi parleremo di Margaret Mead, che è appunto stata una famosissima antropologa, e vi annunciamo che questo argomento è stato trattato dalla nostra compagnuccia Stefania, che stasera non è qui con noi in radio, però le riconosciamo la maternità dell'argomento. Allora, vediamo subito qualche nota biografica sulla affascinante figura di questa studiosa. La Mead nacque a Filadelfia, negli Stati Uniti, nel 1901. Suo padre era un professore di economia e sua madre era una nota sociologa. E la Mead frequentò il Barnard College, dove studiò psicologia e dove conobbe Ruth Benedict, una studiosa molto, molto famosa, che divenne sua amica e la persuase in qualche modo a diventare antropologa. Nel 1925, a soli 23 anni, la Mead si recò a Tau, un'isola samoana, dove si dedicò allo studio delle adolescenti e del passaggio fra adolescenza ed età adulta. Nel 1926 scrisse il suo primo saggio, L'adolescenza in Samoa, che è sicuramente il suo lavoro più noto ed importante, che venne tradotto in moltissime lingue. Nel 1928 si trasferì in Nuova Guinea, dove si dedicò allo studio dello sviluppo dei bambini e dei comportamenti dei giovani della popolazione dell'isola di Manus, mentre nel 1935 pubblicò il saggio Sesso e temperamento, di cui vi parleremo in seguito, basato sulle ricerche condotte in Nuova Guinea su tre popolazioni primitive. Con il suo terzo marito, l'antropologo Gregory Bateson, si recò a Bali e nel 1939 nacque sua figlia Catherine. Pubblicò un libro, Caratteri balinesi, scritto con il marito Gregory, nel quale fece ampio uso di documenti fotografici, apportando in questo modo una innovazione negli studi antropologici. Insieme a Ruth Benedict fondò l'Institute for Intercultural Studies. Nel 1959 pubblicò un antropologa al lavoro, Scritti di Ruth Benedict, che era uno studio sulla sua collega e amica, e sottolineo amica, Ruth Benedict. Nel 1972 invece scrisse la sua autobiografia, che si intitolava L'inverno delle more, e nell'anno, circa sei anni più tardi, morì a New York di cancro il 15 novembre nel 1978. La Mead era una figura molto particolare. In occasione del centenario della sua nascita, molti suoi colleghi si chiedevano come descriverla. Vi leggiamo una descrizione che appunto alcuni dei suoi colleghi fecero di lei. Margaret fisicamente era bassa e tonda, camminava con passo fermo, leggero, col suo bastone da passeggio, ed indossava sempre uno strano cappello. Era un'antropologa, una futurologa, ambientalista, femminista, bisbetica e nonna del mondo. È stata rappresentata in molti modi diversi nella mente della gente. Scrisse ben 44 libri e più di 1000 articoli pubblicati in diverse lingue, e fino agli anni 60 rimase un personaggio pubblico molto molto noto, e nonché una fervente paladina dei valori progressisti. Era una di quelle femministe che tentavano di rendere le donne una parte attiva della società. Il suo contributo principale alla vita culturale è stato quello di far capire al popolo americano le altre culture, considerando l'antropologia come una fonte di autocoscienza per la civiltà occidentale. La Mead diede sempre risalto all'approfondimento storico della evoluzione di ogni singola cultura, considerandola irriducibile alle altre. Assieme alla sua amica Ruth Benedict, viene considerata tra le principali esponenti di una corrente di studi definita Cultural Studies. Si occupò anche di studi di genere e fu tra le prime a sostenere il carattere di costruzione culturale dei ruoli basato sul sesso. Per concludere queste brevi note biografiche relative alla Mead, vi vogliamo raccontare un aneddoto che rivela la forza e l'integrità di questa studiosa. Nel 1976, quindi un paio d'anni prima di morire, lei aveva già 75 anni, insomma era già abbastanza avanti con l'età. A Washington si svolse il meeting annuale dell'Associazione Americana di Antropologia e lei era fra le invitate. venne proposta una mozione durante questo convegno per mettere al bando il libro di Harvard Edward Wilson, che era uno studioso che si occupava appunto anche lui di antropologia. Aveva scritto questo saggio che si chiamava Sociobiology. In questo saggio si metteva in risalto il ruolo della biologia per giustificare alcuni comportamenti umani. Questa era una tesi che poteva far temere in qualche modo un ritorno al darwinismo sociale. Il darwinismo sociale, in parole molto molto povere, è una corrente secondo la quale alcuni aspetti particolari della teoria evolutiva darwiniana sarebbero applicabili alle popolazioni umane, come ad esempio quello che sia logico e naturale che il più forte vinca sul più debole. Sul piano politico, questo darwinismo sociale servì a giustificare una serie di cose orribili come il colonialismo, l'eugenetica, il fascismo e soprattutto il nazismo. E da qui quindi l'idea di censurare il testo di Wilson. La MED in quella occasione si precipitò al microfono e lo afferrò. Ovviamente non era una sostenitrice della sociobiologia, eppure disse: bruciare un libro, stiamo parlando di bruciare un libro, e pronunciò un discorso improvvisato sulla libertà di parola. Durante la sua permanenza sull'isola di Tau, nell'arcipelago delle Samoa, la MED, a contatto con circa 600 abitanti del luogo, raccolse il materiale per il suo saggio più famoso, che fu pubblicato nel 1926 e il cui titolo è Adolescenza in Samoa. In questo testo la MED analizza la vera natura della crisi adolescenziale nella società occidentale, cioè osservando un altro tipo di società, poi fa un'analisi su quella occidentale, giungendo quindi a considerarla non un fatto naturale insito nell'adolescenza, ma piuttosto un fenomeno storico, effetto della formazione culturale. Cioè da noi si dice in Occidente che l'adolescenza sia un momento difficile, eccetera, eccetera. Secondo invece la ricerca della MED, nella cultura samoana l'adolescenza è una fase piena e piacevole, senza crisi né traumi, priva delle fratture tra figli e genitori che normalmente sono tipiche in Occidente. La vita nel villaggio samoano appare alla MED estremamente flessibile. Tutta la società è caratterizzata da un atteggiamento di serena accettazione della vita. Nessun sentimento esasperato, nessuna meta ideale da raggiungere. È una vita senza molte scelte. È in questo quadro di esistenza che le ragazze vivono serenamente la loro giovinezza, alternando ai doveri della casa e ai piaceri del sesso in armonia con la loro coscienza. I rapporti sociali in Occidente, estremamente individualizzati, sono nella società samoana rapporti di gruppo. L'adolescente samoana considera potenziali amanti tutti i ragazzi dell'altro sesso che non appartengono alla sua famiglia. La scelta ha una piccola parte nella vita amorosa della ragazza samoana che non prevede spazio per un rapporto romantico. Rispetto ad una ragazza occidentale, l'adolescente samoana può sfuggire all'esercizio del controllo dell'autorità parentale con maggiore facilità, grazie anche ad una vasta e accogliente trama di parenti. In questo modello sociale, la conoscenza diretta e la partecipazione hanno un grande peso nella formazione degli adolescenti, che prendono parte attiva nella vita della comunità, assistendo per esempio ai parti, al sezionamento dei cadaveri, alla vita sessuale degli adulti, a differenza degli adolescenti occidentali. I samoani accettano gli eventi naturali con calma, al contrario degli occidentali che esprimono distacco e ostilità verso le leggi della natura. La MED sostiene che questo modello, che nella sua natura tende ad eliminare conflitti e tensioni, non può essere esportato in Occidente, ma che una possibile soluzione sia educare le persone alla scelta. Ora, come vedete, cioè un'osservazione abbastanza interessante. Noi in Occidente sappiamo facciamo finta che scegliamo, ma sappiamo che in realtà non si sceglie proprio niente. Abbiamo dei comportamenti estremamente direzionati, no? Comunque non è male l'idea di vivere la propria adolescenza in questo modo così flessibile, avendo rapporti sessuali qua e là, senza... Vabbè, tu sei la solita adolescentona, ti piacesse. Ops, scusate. Questa ricerca è diventata piuttosto scomoda ed è stata contestata da alcuni antropologi locali nelle sue conclusioni, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dei costumi sessuali. A sostegno delle sue tesi nel saggio Sesso e temperamento, la Med riporta lo studio di tre popolazioni primitive della Nuova Guinea, perdonate la pronuncia, gli Arapesh, i Mundu Gumor e i Ciambuli. Il punto di partenza della studiosa... Scusa, sono contenta che questo pezzo sia toccato. mi hai fatto emozionare, mi sono commossa nel senso della commozione cerebrale. Dicevo, il punto di partenza di questa studiosa era l'osservazione del condizionamento della personalità sociale dei due sessi, ma le sue conclusioni vanno molto al di là delle aspettative. Citiamo dal testo della Med: gli Arapesh, uomini e donne, presentano una personalità alla quale, nei limiti storici della nostra ricerca, si può riconoscere un carattere materno, se si considera il comportamento nei confronti della prole, e femminile, se si considera il comportamento sessuale. Abbiamo trovato che tanto gli uomini quanto le donne sono educati alla collaborazione, alla non aggressività, alla comprensione delle necessità e delle esigenze altrui. Caratteristiche queste che nella società occidentale sono attribuite al temperamento femminile. Qui direi che la Med introduce il primo discorso appunto sulla educazione, quindi su quello che possiamo definire il condizionamento culturale. Mentre da noi si condiziona, si educa le donne ad essere accoglienti, gentili, beneducate, eccetera, eccetera, lì da loro questo... Sì, soprattutto che non violente, esatto. con un temperamento come dice... Femminile, insomma, per usare la terminologia della Med, no? Ed è però un'educazione che appunto fa riferimento sia agli uomini che alle donne, e questo è il primo punto. Scusate. In netto contrasto con queste caratteristiche, continua la Med, abbiamo constatato che fra i Mundu Gumor, tanto fra gli uomini che fra le donne si sviluppano individui duri, crudeli, aggressivi, con una forte carica sessuale e gli aspetti materni ridotti al minimo. Caratteristiche che nella nostra società delineerebbero un tipo di personalità non solo maschile, ma addirittura indisciplinata e molto violenta. La cosa interessante è che né fra gli Arapesh né fra i Mundu Gumor si evidenzia che la divisione sessuale dei ruoli è pressoché inesistente. Nella terza tribù, i Ciambuli, abbiamo trovato il vero e proprio rovescio della nostra cultura. La donna è il partner dominante, direttivo, impersonale, e l'uomo occupa una posizione di minore responsabilità e di soggezione sentimentale. In questa tribù è la donna che lavora e gestisce i guadagni. Questo deve essere un bel posto. Mentre l'uomo è costretto ad una sorta di inattività o di attività collaterali, sempre però gestite dalla donna. L'atteggiamento della donna nei confronti dell'uomo è di amabile tolleranza e di compiacimento. Non so se vi ricorda qualcosa. Mentre l'uomo sa fin dalla propria infanzia che per ottenere ciò che realmente desidera deve conquistarlo dalla donna a prezzo di sguardi languidi e di parole dolci. Non so se avete letto un romanzo di fantascienza che si intitola Le figlie di Egalia, che propone proprio una tipologia, un tipo di società di questo genere, e che io ho letto con grande piacere e che vi consiglio. Soprattutto la parte del reggipene, quello era veramente molto interessante. Quindi la moglie in questa tribù passa il suo tempo insieme alle altre donne della comunità lavorando e creando un gruppo chiuso, armonico e produttivo, mentre il marito trascorre il tempo con gli altri uomini impegnato in poche attività, alimentando futili liti e gelosie. Interessante in tutte e tre le tribù è il fatto che ci siano ovviamente contrasti, come ci sono all'interno della nostra società, tra marito e moglie, che talvolta sfociano in risse. Tra gli Arapesh e i Mundu Gumor, la donna non è considerata inferiore all'uomo, né psicologicamente né fisicamente. L'uomo si guarda bene dall'affrontarla impunemente, perché sa che lei risponderà ai suoi colpi. E può essere molto pericoloso se è armata. Alcune randellate sulla nuca non gliele leva nessuno. Nei ciambuli, essendo appunto una società con una differenziazione tra i sessi, prevale l'idea che l'uomo sia più forte fisicamente della donna. Questo ovviamente crea una dissonanza proprio con il fatto che sia la donna a detenere il potere effettivo. Quando ci sono casi di violenza generati il più delle volte dal fatto che l'uomo si sente trascurato ed escluso dal cerchio stretto delle donne, il comportamento dell'uomo è considerato infantile ed è svalutato. L'atteggiamento che si ha verso la violenza maschile, comunque rara, perché come si è detto l'uomo tenta sempre di farsi benvolere dalla donna, viene stigmatizzato come socialmente non accettabile. Ora, tanto per fare un piccolo parallelo, gradiremmo, tanto per dirne una, che anche qua da noi, nella nostra società, la violenza maschile venisse stigmatizzata come socialmente non accettabile. E a questo punto faccio un'altra piccolissima digressione dicendo che se visitate il sito della Casa Internazionale delle Donne troverete, ed hanno aderito anche altri gruppi, una richiesta da fare al Presidente della Repubblica e allo Stato italiano di considerare e di fare quindi dei funerali di Stato alle donne morte per femminicidio, e noi aderiamo a questo tipo di iniziativa. Ritornando all'argomento di questa sera, la MED introduce il concetto di aberrazione a livello sociale, e cioè la non corrispondenza dei modelli individuali all'interno di quella cultura etnica. Quindi, per gli Arapesh, l'individuo aberrante è da riferire all'uomo o alla donna violenti e individualisti. Per i Mundu Gumor, al contrario, l'individuo aberrante è l'uomo o la donna mite e collaborativa. Per i ciambuli, infine, l'individuo aberrante è l'uomo autonomo e dominante e la donna dipendente affettivamente ed economicamente dall'uomo. Ora, se vogliamo spiegare un po' meglio questo concetto, fino a 800 gli individui e le individue aberranti erano gli omosessuali, i gay e le lesbiche, perché non corrispondevano a un modello dato di femminilità e di mascolinità. E ancora oggi in molte società vengono considerati, se prendiamo anche tutti i paesi del Medio Oriente, comunque Iran, Afghanistan, eccetera, senza andare tanto lontano, anche in una capitale straniera, Città del Vaticano. Città del Vaticano, per esempio, si ha ragione, l'omosessualità è ritenuta un'aberrazione sociale, no? Quindi un comportamento aberrante, dice la stessa parola che fa fare aberrante. Aberrante. Ecco, questo è quanto. Ritorniamo quindi nuovamente alla MED. La MED arriva a concludere che in ogni società la scelta dei ruoli che gli individui devono incarnare è funzionale al sistema di potere e non a scelte libere, individuali o collettive. Si tratta dunque di vie obbligate di comportamento e tutte le sovrastrutture, quindi la cultura, la religione, l'economia, la pubblicità e chi più ne ha più ne metta, si organizzano in questo senso, come nella nostra società. Citiamo dal libro: una cultura può scegliere i suoi elementi ora in un temperamento, ora in un altro, e invece di riunire temperamenti diversi in un miscuglio incoerente, invece di fonderli in un tutto magari omogeneo ma privo di carattere proprio, fare di ciascun tipo di temperamento la base della personalità sociale riconosciuta di un gruppo di età o di un gruppo sessuale o di una casta o di un gruppo di mestiere. Lo stesso può dirsi per le personalità sociali dei due sessi, caratteri che si presentano in membri di ambedue i sessi sono assegnati specificatamente ad un sesso e considerati estranei all'altro sesso e naturali per l'altro sesso. Vi dice qualcosa? A noi ci dice molto. Molto, molto. E così l'individuo aberrante deve la sua aberrazione ad un difetto ghiandolare o un'alterazione accidentale dello sviluppo. Vi ricordate in varie trasmissioni che noi abbiamo fatto, ne cito una di qualche anno fa, erano arrivati persino a misurare la lunghezza delle dita della mano delle lesbiche e pareva che quando il dito medio e il dito anulare avevano la stessa altezza, era da considerarsi appartenente queste dita a donne lesbiche. Ecco. Però ora, è vero, di fatto vorrei farvi notare. Io sono arrivata al medio perché non era tanto uguale all'anulare, ma perché io sono lesbica e quindi voglio comunque appartenere a quella tipologia. Non indagheremo sul perché tu stai parlando esattamente di queste dita, comunque si prosegua. Vabbè, non indaghiamo oltre. Quindi, poi parlando dell'educazione che viene data ai bambini e alle bambine nella nostra società, quindi si ritorna in Occidente a fare un'analisi sull'Occidente, e la Med afferma: tutte le volte che si parla di comportamento conforme al sesso, che si ricorda al bambino il suo sesso per fargli preferire i pantaloni alle gonne, la mazza da baseball alla bambola, i pugni alle lacrime, si alimenta nell'animo del bambino il timore di non appartenere al proprio sesso, nonostante le evidenze anatomiche. Avviene così che in quasi tutti gli uomini e le donne si insinui un seme di dubbio, di ansietà, che disturba il corso normale della vita, perché la saldezza delle loro convinzioni di appartenere ad un dato sesso dipende dal fatto che non si presentino personalità dissimili nel sesso opposto. Mentre Manuela si controlla le dita sostenendo di essere molto più lesbica di quello che dovrebbe, dal momento che le misure non corrispondono alla teoria di cui parlavamo prima, concludiamo la nostra analisi sulla Margaret Mead, evidenziando la modernità delle conclusioni a cui arriva appunto questa antropologa, che ricordiamo ha scritto questo trattato Sesso e temperamento nel 1935. Sulla omosessualità, in qualche modo, la Med riconduce il discorso alla questione appunto dell'aberrazione e dell'adattamento ai ruoli predefiniti, mentre spiega l'omofobia come un comportamento inevitabile, poiché appunto l'omosessualità stessa destabilizza l'organizzazione sociale. E adesso ascolteremo un brano musicale, perché sennò vi addormentate tutte quante, giustamente, e vi faremo sentire

a coordinamento lesbiche romane presso Centro Femminista Separatista, Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B00165 Roma. Se volete mandarci una mail, contatti @clrbp.it oppure mandarci un sms al nostro telefono che resterà attivo fino alle ore 22, 339-853-6270. Vi ricordiamo ancora una volta la campagna di finanziamento per sostenere la radio. Potete passare in radio tutti i giorni dalle 8 alle 21 oppure potete compilare un bollettino di conto corrente postale 61804001 intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56 00185 Roma, con la causale sottoscrizione. Oppure naturalmente il sito www.ondarossa.info cliccando sulla icona sostiene. A questo punto, come annunciato, vi lascio a Lucilla che ci racconterà di Rosanna Fiocchetto cosa dice di Margaret Mead. Allora, arriviamo al pettegolezzo, no? Perché poi, cioè, noi siamo lesbiche e quindi ci piace. Non è vero che le lesbiche non sono donne, come diceva la Wittig, sono donne come sono pettegole. No, allora in questo caso semmai siamo parrucchiere, siamo lavandaie, siamo altro. Ci piace, vai, ecco. Dai, ci piace, dice tutto. Allora, dice Rosanna Fiocchetto, è paradossale che l'antropologa Margaret Mead, celebre per la sua attenta osservazione e i suoi resoconti delle strutture sociali e familiari, abbia invece accuratamente nascosto i suoi rapporti lesbici con le donne. Nata il 16 dicembre 1901 a Filadelfia, prima di 5 figli, Margaret venne fortemente incoraggiata allo studio da sua madre, Emily Fudge Mead, e da sua nonna, Martha Mead. Dopo aver frequentato la, DuPont University, sentite che bella pronuncia, la stessa in cui si era laureata sua madre, si trasferì al Barnard College di New York. Qui, nel 1922, mentre studiava con l'antropologo Franz Boas, conobbe la sua assistente Ruth Benedict, nata nel 1887 e morta nel 1948, che divenne la sua mentore, la sua amante e una delle persone più importanti della sua vita, che l'accompagnò spesso nei suoi viaggi. Quando a Margaret venne proposto di recarsi nel sud del Pacifico per svolgere ricerche sul campo, Boas cercò di scoraggiarla, enumerandole tutti i pericoli di una simile scelta per una donna. Ruth invece la sostenne, consentendole di partire per Samoa nel 1925. Dal lungo viaggio scaturì la ricerca Coming of Age di Samoa, pubblicata nel 1928, c'è Rosina che sta ridendo, concentrata soprattutto sui rituali di passaggio e di iniziazione delle donne, che divenne presto un classico dell'antropologia. Nel 1923 Margaret aveva sposato il ministro episcopale Luther Crisman, poi diventato archeologo, in un matrimonio che sembrava basato su interessi condivisi piuttosto che sull'attrazione sessuale. Inoltre, con una scelta che all'epoca sfidava le convenzioni, Mead conservò il proprio cognome senza assumere quello del marito. Durante un viaggio in Europa conobbe lo psicologo neozelandese Reo Fortune, che sposò nel 1928, divorziando da Crisman. Che hai detto? Reo confesso. Reo confesso, va bene. Anche, scusate, ma la mia pronuncia, come pensate, fa un po' schifo, però vabbè. Anche questa unione piuttosto tumultuosa finì presto con un divorzio. Nel 1935 Margaret si sposò per la terza volta con l'antropologo Gregory Bateson, dal quale di nuovo divorziò nel 1950. Il vero matrimonio di Mead fu con la propria carriera, estremamente attiva, esplorazioni e soggiorni di studio in molti paesi, tra cui la Nuova Guinea e Bali. Circa 40 libri, biografie e autobiografie. Il lavoro di curatrice dal 1926 dell'American Museum of Natural History di New York, madonna mia, tutto l'inglese a me. Conferenze e lezioni in molte università americane, inglesi ed australiane, la co-direzione della rivista Red Book, con la quale si rivelò anche efficace giornalista e divulgatrice. Inoltre, nell'arco di tutta la sua vita, fu una forte sostenitrice dei diritti delle donne. Morì di cancro il 15 novembre 1978 e poco dopo le venne attribuita la Presidential Medal of Freedom. A Ruth Benedict dedicò due libri, Benedict un'antropologa al lavoro, gli scritti di Ruth Benedict del 1959 e Ruth Benedict nel 1974, ricordandola anche nella sua bellissima autobiografia Blackberry Winter, cioè l'inverno delle more del 1972. Curò anche la pubblicazione dei suoi scritti dopo la morte di Benedict nel 48, incluse alcune poesie d'amore che Ruth aveva composto per lei. L'unica figlia di Margaret Mead, Mary Catherine Batson, anche lei antropologa, ha parlato dell'amore tra le due donne nelle sue memorie, With a Doctor Eyes, del 1984, che vorrebbe dire... Uno sguardo di una figlia. Uno sguardo di una figlia. La relazione tra Ruth e Margaret, iniziata ai tempi dell'università, continuò attraverso i tre matrimoni di Margaret e sua figlia, ha testimoniato che l'amò pienamente e costantemente, esplorando tutte le possibilità di vicinanza personale e intellettuale. Mary Batson riferisce anche che sua madre, nella maggior parte della sua vita adulta, ebbe sempre una relazione intima con un uomo e un'altra con una donna. Aggiungendo, questo doppio schema deve essere stato soddisfacente e di grande sostegno, ma nello stesso tempo creava una specie di isolamento, un isolamento di segretezza. Mary ricorda anche che mentre era al liceo parlò a sua madre di una compagna di scuola che aveva una cotta per lei. Margaret le diede una copia del romanzo lesbico di Rosamund Liesman, That's the Answer, ma la avvertì che uno scandalo avrebbe potuto danneggiarla professionalmente. Nel gennaio del 1975, tuttavia, Margaret Mead pubblicò sulla rivista Red Book un saggio intitolato Bisexuality, cioè bisessualità. E poi che vuol dire? A New... Andiamo avanti, via via. Vabbè, insomma, c'è un titolo in inglese che non mi sto a dire. Riedito nella raccolta Aspetti del presente del 1980. Senza personalizzare il discorso, scriveva: è arrivato il tempo, penso, di riconoscere la bisessualità come una normale forma del comportamento umano, affermando che un numero molto grande di esseri umani, probabilmente una maggioranza, sono bisessuali nella loro potenziale capacità di amare. Mead citava a sostegno della sua tesi le culture asiatiche e dell'antica Grecia, l'uso della confusione dei generi sessuali nelle commedie elisabettiane, le associazioni francamente bisessuali di persone creative come gli esponenti del gruppo di Bloomsbury, il circolo di Virginia Woolf e della comunità artistica della Rive Gauche a cavallo della Prima Guerra Mondiale, il matrimonio aperto di Rita Sackler West ed Harold Nichols. Vi ricordiamo che Rita Sackler West è stata l'amante di Virginia Woolf, e concludeva rivendicando per ognuno il diritto a essere una persona unica e con un'identità sociale meritevole di dignità e rispetto, e a scegliere come compagno un membro del proprio sesso o di quello opposto, oppure di decidere di vivere una vita pienamente comunitaria. Quindi questo è l'articolo che vi è di Pettegolezzo, e non solo, ora abbiamo detto Pettegolezzo, però è anche interessante, cioè ricordare la storia delle persone, delle donne, ed è a cura di Rosanna Fiocchetto, pubblicato da Paola Guazzo per la Nuova Towanda. Tutto questo ci insegna due cose: la prima, ad imparare bene l'inglese, perché se qualcuno volesse andare a vedere questi testi sarà molto difficile per lei farlo. Però potete trovare sulla Nuova Towanda, cliccate su dopo la pronuncia, scrivete www.nuovatowanda.it e troverete l'articolo di Fiocchetto e ve lo leggete voi l'inglese. La seconda cosa che ci insegna è a non rivelare mai i propri segreti ai figli, perché quelli vi sputtanano come girate le spalle. A questo punto mandiamo un ultimo brano musicale, eccolo qui, Each Man Kills the Things He Love di Jean Moreau, e sigla finale, saluti e tanti cari baci. Volevo dirvi però, io mi costringo a non imparare l'inglese perché non voglio sapere niente della lingua dell'impero. Questo è uno. Due, vi ricordiamo che venerdì prossimo, se volete venire al Kesbilè, a via San Francesco di Sales 1B, siete le benvenute dalle 9, dalle 21 in poi. Dalle 21 in poi ci siamo tutte, tanti cari baci. Ciao. Musica e saluti. Ciao. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. That it does. da da da da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da da da da da. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword, with a sword, with a sword. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da da da da da da. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that.